Destinazione Natale a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. Trova il regalo che hai sempre desiderato tra le oltre 160 boutique delle firme più prestigiose, con sconti fino al 70%. Vieni a trovarci alla Reggia Designer Outlet. Amici di archeologiavideoludica.net, amici di eurogamestaglia.net, ciao a tutti, sono Roberto Bertoni e benvenuti in questo piccolo episodio di Archeologia Videoludica. Come penso avrete avuto modo di vedere, questi episodi saranno dei piccoli short che sono tesi a focalizzare l'attenzione su un particolare titolo. Un titolo che magari non è espressamente attinente a quella che è la nostra cronologia che stiamo seguendo, ma che in qualche modo può essere interessante e possa essere definito come oggetto e soggetto delle nostre puntate. Nel mio spazio personale vorrei parlare di un titolo che appunto non è esattamente collegato con gli anni che stiamo trattando, siamo infatti nel 1997 e sebbene possa sembrare un titolo relativamente recente, stiamo comunque parlando di 17 anni fa, quindi un lasso di tempo per il quale può essere definito comunque un oggetto di archeologia. Il titolo in questione è Total Annihilation di Cave Dog e penso che sia importante trattarlo per due motivi: uno, se vogliamo, di contorno, un altro più strettamente filologico. Il motivo di contorno è che all'interno di questo gioco possiamo trovare lo zampino più o meno diretto di Ron Gilbert, perché ai tempi collaborava appunto con la software house Chris Taylor nella costruzione di giochi. È sicuramente una presenza di contorno, però sicuramente penso che sia comunque un elemento interessante che possa essere il giusto grado di curiosità quando si presenta un gioco e si cerca di esaminare tutte le varie diramazioni e collegamenti che lo stesso può avere. Dal punto di vista storico invece è estremamente importante per anche qui due motivi, e scusate la ripetizione. Il primo è tecnologico, perché come vedremo utilizza un motore, una grafica e una costruzione tecnica dell'intera struttura del gioco che probabilmente non era precedente fino al 1997, anno della sua uscita. In secondo luogo presenta diverse innovazioni proprio a livello di gameplay, innovazioni che lo rendono un titolo godibilissimo ancora oggi, che presenta alcuni elementi che avrebbero potuto essere ripetuti anche in titoli più moderni, ma che purtroppo in un modo o nell'altro sono stati dimenticati, e infine presenta una longevità, ovvero una possibilità di essere gradevole nel lungo periodo, veramente alta, sia per un fronte multiplayer ben strutturato, sia soprattutto per una campagna single player con relativa espansione che sa dare davvero del filo da torcere ai giocatori, soprattutto ai livelli più avanzati. Allora iniziamo un attimo a contestualizzare il titolo. Diciamo appunto siamo nel 97 ed è uno strategico in tempo reale con tematica fantascientifica. In pratica ci troviamo nel futuro con due diverse fazioni, Core e ARM, che si trovano a combattere fra di loro. Le due campagne prevedono circa 25 livelli per fazione e, giusto per fare un paragone, aiutandomi in questo caso Wikipedia, un titolo più o meno parallelo di quegli anni, quindi Red Alert, comprendeva solamente 14 missioni per fazione, quindi potete capire che veramente ci sono già in partenza differenze notevoli. Aggiungiamo al tutto che, e qua apro una piccola parentesi, il gioco è estremamente moddabile, quindi la comunità si è spesa veramente tanto per produrre contenuti inediti. Potete capire che è un videogioco che potrebbe durarvi quasi all'infinito. Come ogni strategico che si rispetti, il fulcro di tutto risiede nell'utilizzo e nella raccolta di due risorse, che in questo caso si configurano come il metallo e l'energia. Metallo e energia che, tramite anche qui aggiungo una piccola parentesi, un edificio costruibile possono essere interscambiabili, però questo è un aspetto più di contorno. Diciamo che appunto attraverso queste due risorse bisogna costruire il proprio esercito, che qui viene strutturato e diviso in tre segmenti principali, quindi terra, aria, acqua, tre segmenti che si confrontano fra loro in maniera molto libera. Anche qui, facendo un piccolo paragono con i titoli dell'epoca, viene lasciata molta libertà al giocatore, che può decidere, comandare e strutturare il proprio esercito a proprio piacimento, rendendo di fatto ogni scontro modellabile rispetto a quello che è un po' la propria inclinazione. Diciamo che se solitamente nei strategici si opera con creo il grande esercito indistruttibile e vado a distruggere il mio avversario, qui è possibile strutturare un minimo di strategia, cosa che rende sicuramente il titolo molto più godibile. Altro elemento importante è sicuramente il numero di edifici disponibili, ovvero di edifici che è possibile costruire. Davvero tanti, divisi su due livelli, livello base e livello avanzato, permettono anche in questo caso di avere una notevole varietà. Cosa che rende sicuramente da una parte in merito a Cave Dog dal punto di vista stilistico, dall'altro ha richiesto un bilanciamento fra le due fazioni in gioco sicuramente importante, e credo che questo bilanciamento sia stato fatto in maniera molto molto convincente, tant'è vero che pur essendo diciamo di base le due fazioni strutturate con unità simili, è possibile vedere appunto come unità simili possono avere comportamenti e strategie diverse a seconda appunto degli obiettivi della missione sicuramente, e di come si vuole un po' strutturare il proprio attacco, quindi magari privilegiare attacchi di mare, attacchi di terra, o addirittura utilizzare più attacchi in maniera sinergica. Stesso discorso ovviamente anche per quanto agli armamenti, sebbene questo sia una configurazione, o meglio una possibilità di strutturazione un po' meno frammentata, in quanto ogni unità è equipaggiata con un singolo armamento e non è possibile cambiarlo nel corso dell'avventura o della missione, scusate, un po' come avviene con alcuni titoli più moderni. Altro elemento che ritengo sicuramente degno di nota è il motore grafico che ce n'ho precedentemente. Infatti è uno dei primi titoli in cui veramente lo scenario di gioco rimane configurato nelle tre dimensioni, e questo nonostante si utilizza la classica visione a volo d'uccello che in qualche modo ha da sempre caratterizzato questo genere. La cosa importante è che il terreno in 3D influisce realisticamente anche sulle azioni di gioco, in quanto una maggiore quota, diciamo un'unità posizionata in maniera più elevata rispetto a un'altra, ha sicuramente maggiore visibilità e anche una maggiore capacità di attacco rispetto a unità posizionate sottostanti. Giusto per contorno, anche gli effetti grafici sono sicuramente interessanti, sia come anche gli elementi di contorno che appartengono allo scenario, quindi alberi, fuoco, lava, insomma tutto è reso al meglio. Se pensiamo al titolo del 97 sicuramente non ci si può lamentare. Vero fulcro del titolo però è un'unità che non ho ancora menzionato, ovvero il Commander. Il Commander è una super unità che di norma è quella che avete inizialmente all'inizio della missione, e che ha una duplice caratteristica. Innanzitutto può costruire tutto, quindi è un po' un'unità base. Seconda battuta, è equipaggiata con un'arma potentissima, la cosiddetta D-Gun, che permette di distruggere i nemici con un unico colpo. Soprattutto per i più temerari è un'opzione interessante quando permette di attaccare l'arma bianca. Occhio però che nel momento in cui il Commander viene distrutto, la missione termina istantaneamente. Infine, per chiudere un po' il cerchio di presentazione di questo titolo, penso che sia sicuramente importante raccontare un attimo il multiplayer, che ha visto negli anni avvicendarsi veramente una comunità importante. Allora, il multiplayer sostanzialmente si poteva strutturare nella solita modalità skirmish, ma aveva la pecca che spesso, a causa appunto del comandante che dicevo prima, che era un po' il centro del tutto, si trasformava in una caccia comandante contro comandante, limitando, se vogliamo, un po' quella che era la varietà di sfida. Resta indubbio che comunque grazie al bilanciamento delle fazioni che accennavo prima, probabilmente anche il fatto di essere solo due fazioni ha aiutato in questa cosa, ecco, probabilmente grazie appunto a questo bilanciamento è comunque possibile ottenere delle partite veramente interessanti. Se cercate un po' per la rete, peraltro potete imbattervi anche nella partita anche oggi, quindi sicuramente è un titolo importante. Perché è importante per me a livello personale? Allora, sicuramente perché è uno dei primi strategici che ho apprezzato maggiormente. Mi ricordo che ai tempi ero un po' impazzito di Age of Empires 1-2, con diverse diciamo deviazioni verso altri generi. Quando mi sono trovato di fronte a questo titolo ho veramente avuto un approccio positivo, mi sono trovato subito coinvolto ed è uno dei primi titoli che ho giocato di del genere, intendo, ho giocato e iniziato dall'inizio alla fine senza introduzioni di sorta. In seconda battuta, perché mi ha permesso di apprezzare anche un modo di giocare, un modo di costruire i giochi che va ben al di là di quello che è la semplice fruizione, nel senso che tutto il mondo dei mod, delle aggiunte degli utenti, delle comunità che sono create, appunto mi ha permesso di partecipare a un collettivo che non avevo ancora provato in nessun titolo almeno di questo genere. Infine, e poi vabbè, diciamo che una nota un po' più personale, ho trovato davvero piacevole utilizzare quello che è il comparto aereo, nel senso che era un qualcosa che mi mancava, diciamo, per questo genere di giochi, e quindi ho avuto modo di, appunto, di apprezzare la modalità con cui lo stesso è stato implementato all'interno del gioco. Sicuramente lo consiglio a tutti, è accessibile per esempio anche su GOG.com a un prezzo irrisorio con tutte le varie espansioni, quindi un pacchetto davvero completo, e anche se trovate in lingua inglese non preoccupatevi, perché comunque non è un inglese ostico, ma anzi è perfettamente fruibile a chiunque voglia approcciarsi al gioco. Per quanto riguarda invece la parte dedicata un po' ai commenti che recuperiamo dai nostri amici, mi sembra doveroso recuperare un commento relativo alla puntata 4x02, la preservazione videoludica, in quanto un nostro amico utente, che purtroppo non si è firmato, quindi se vuoi farti sentire, farci sapere chi sei, sei benvenuto, ci apre una discussione interessante un po' sul discorso della preservazione videoludica. Diciamo che introduce altri elementi di interesse, e infatti non nego che spero, e Simone spero che mi dia ragione, infatti sta editando in questo momento, quindi se non cancella questa parte potete essere fiduciosi, spero che torneremo sull'argomento, in quanto i punti di discussione sono ancora diversi, e sicuramente il dibattito che si può aprire è importante e aiuterebbe il videogioco a 360 gradi. Ho particolarmente apprezzato il fatto della sottolineatura della obsolescenza dell'hardware, in quanto appunto proseguendo nella costruzione di hardware sempre diversi, non compatibili con quello che è stato il passato, si rischia veramente di raggiungere un punto di non ritorno dove non potremo trovare più giochi del passato anche recente, quindi questo è un punto di attenzione che mi sento di sottolineare, e ringrazio nuovamente il nostro amico per averlo tirato fuori. Direi che con questa parte sostanzialmente abbiamo un po' finito quella che è la nostra mini puntata. Ci tengo a fare gli auguri di Natale, sebbene temo che non arriveranno per tempo, però questo è il meno, nel senso prenditeli per buoni, e speriamo che il nuovo anno ci porti ancora più energia, ancora più voglia di entrare in questo mondo dell'archeologia. Un saluto speciale a Simone Pizzi, un saluto anche a Paolo di Calavera Caffè, so che non tutti coglieranno la citazione, ma ci tengo veramente molto a salutare il nostro amico Paolo. Infine un abbraccio a tutta la mia combricola degli amici, che mi sta permettendo comunque di scoprire pagine della storia dei videogiochi che anche io personalmente magari non conoscevo in prima persona. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutti, un saluto e buona serata a tutti. Destinazione Natale a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. Trova il regalo perfetto nelle oltre 160 boutique delle migliori firme, con sconti fino al 70%. Vivi la magia delle feste con noi e vieni a trovarci alla Reggia Designer Outlet.